9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi parliamo delle nostre aziende e della giustizia. C'è probabilmente un filo sottile che unisce tutto quanto. Gli eventi che ci sono sulle prime pagine dei giornali in questo periodo, le vicende di Finmeccanica e dell'ENI naturalmente, la vicenda dell'ILVA, ieri lo sapete, i prodotti finiti e semilavorati dell'ILVA sono stati finalmente sbloccati dal GIP, quindi potranno essere venduti, il ricavato rimarrà sotto sequestro, probabilmente andrà al Ministero dell'Ambiente che lo potrà utilizzare per la bonifica. C'è la vicenda dell'ILVA, si diceva appunto, e quindi ci sono le questioni penali, ma non solo. C'è anche una giustizia che crea problemi alle aziende in altri versi. C'è una classifica, se vogliamo, abusata, che però ci piace ricordare sempre, la classifica Doing Business della Banca Mondiale. È all'ultimo posto il nostro paese nel vecchio continente e al 158esimo al mondo per efficienza del sistema giudiziario. Se un imprenditore si affida al tribunale per ottenere l'esecuzione di un contratto, deve perdere 1210 giorni per avere la sentenza. E alla fine di questa trafila ha speso in avvocati e burocrazia il 30%, il 30% del valore del contratto. E poi c'è anche la giustizia amministrativa. Quante storie abbiamo raccontato anche da questi microfoni di ampliamenti aziendali magari bloccati da un TAR e poi magari sbloccati, ma quanto tempo dopo, dal Consiglio di Stato. Quindi vedremo di tenere insieme questo filo sottile che lega i problemi del sistema giustizia con quelli del sistema industriale, partendo però dalle questioni penali, da quelle che sono sulle prime pagine dei quotidiani in queste ore. Saluto Felice Casson, senatore del PD, candidato nella circoscrizione Veneto, ex magistrato, naturalmente, è la persona che indagò su Marghera, quindi il caso che è stato considerato più simile a quello dell'ILVA, se vogliamo. Buongiorno Casson. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Carlo Calenda, manager, candidato di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio. Buongiorno Calenda. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno anche a Claudio Borghi, economista, editorialista del giornale, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno Borghi. Buongiorno a voi. Inizierei da lei, Borghi. Insomma, ho visto qualche suo tweet in giro. Secondo lei c'è un attacco in queste ore, un vero e proprio attacco concentrico della magistratura alle nostre aziende? Sto semplicemente constatando un fatto. Nel momento stesso in cui delle iniziative che, prima ancora di dimostrare se sono giuste, sbagliate o simili, attaccano quasi tutte contemporaneamente le principali industrie manifatturiere italiane, uno forse delle domande se le deve porre, perché mi sembra che la nostra magistratura vada a mode. Ci sono dei momenti in cui si perseguono determinate cose e dei momenti in cui poi dopo si vanno a cercare determinate altre, ma in tutte queste mode un tipo di fil rouge mi sembra evidente, cioè in ogni caso si fanno prima dei danni assoluti in termini reputazionali, ed è la stessa cosa che accade quando si prende per esempio qualcuno e lo si mette in galera per un anno, come è successo parlando di imprenditori per esempio a Silvio Scaglia. E poi dopo, che oltretutto non mi risulta che avesse qualsiasi tipo di requisito tale per cui uno bisognava prendere, scappava, così, così, è tornato su a sponte dall'estero, invece l'hanno preso, l'hanno messo in galera e via andare per un anno. E poi dopo, quindi si distrugge prima la reputazione della persona, e poi dopo forse si fa il processo, e poi dopo forse si scopre che magari è pure innocente. In questo caso si sta attaccando la reputazione delle aziende prima ancora di dimostrare l'illecito, perché a quel punto sappiamo benissimo che la fiducia e il nome per un'azienda è tutto. Nel momento stesso in cui si dà subito l'immagine che questa azienda corrompeva, faceva illeciti, inquina, causa le morti e cose di questo tipo, poi dopo recuperare per un'azienda in un mercato estremamente competitivo è impossibile. E chi ne beneficia? Se ne beneficiassero concorrenti corretti italiani, uno dice, insomma, fa parte delle regole del gioco e anche lì ci sarebbe da discutere. Ma in questo caso il primo beneficiario di tutta questa nostra operazione è l'industria estera. E poi si dice che noi non siamo competitivi, bisogna mettere le tasse perché, poveretti noi, in realtà la nostra industria non va bene. E caspita, ma se tutto lo Stato rema contro, vuoi con tasse, vuoi con inchieste così spettacolarizzate, fatte in questa maniera, con queste, da provocare proprio però il massimo Borghi, danno. Però Borghi, se gli illeciti ci sono, la magistratura che cosa deve fare? Innanzitutto dovrebbe stare zitta. Perché non è possibile che, come anche nel caso delle imprese, c'è il solito difetto rispetto alle persone, vale a dire che si sa tutto, tutti, in tutti i momenti, prima ancora di iniziare qualsiasi processo. Poi dopo, dal mio punto di vista, bisognerebbe stare molto attenti a separare delle ardite interpretazioni, vale a dire come il caso delle tangenti all'estero. Cioè, signori, le tangenti all'estero, la corruzione tutela un bene che è l'integrità dello Stato. E quindi cosa succede? Io devo evitare che uno paghi un funzionario statale per avere un ufficio privato. Ma adesso cosa abbiamo? A tutelare l'integrità dello Stato algerino o l'integrità dell'India? Cioè, ci vorrebbe anche il buon senso, ma anche supponendo che qualcuno abbia pagato delle mazzette in India, ma che siano degli indiani a occuparsene, no? La magistratura indiana. Ma forse quando ci sono le banche che hanno riempito di derivati strani le imprese, i comuni italiani, provocando il danno che sappiamo, quella che è intervenuta, la magistratura inglese, la magistratura americana, la magistratura tedesca, siamo intervenuti giustamente noi. Ma adesso cosa facciamo? I giustizieri del mondo ai danni delle nostre imprese? Ma qui siamo impazziti. Tra poco su questo voglio sentire Carlo Calenda, che tra l'altro è uomo d'impresa, insomma, e quindi da questo lato anche, appunto, una conoscenza diretta di queste cose. Però voglio prima sentire il magistrato dall'altra parte, per così dire, o l'ex magistrato Felice Casson. Lei come la vede da questo lato? Ha sentito cosa dice Borghi? L'ho sentito, le critiche sono note perché ogni qual tanto vengono ripetute quando si verificano episodi di questo tipo. E devo dire peraltro che io sono d'accordo essenzialmente su un punto, e cioè che la magistratura, il magistrato che fa determinate indagini, deve stare zitto, deve farle nel massimo riservo, rispettando le leggi, parlando attraverso i ricorsi se serve al tribunale del riesame o la Cassazione, però al di fuori di questo deve rimanere completamente esterno alle diatribe, agli scontri, alle valutazioni politiche. Continua a filtrare, secondo lei, Casson, troppa roba sui giornali? Bisogna distinguere, perché ci sono atti che non sono coperti da segreto e che correttamente la stampa pubblica, correttamente i giornalisti ne parlano in tutti gli ambiti. Ad esempio, gli atti come quelli relativi alle ordinanze di custodia cautelare o ai provvedimenti di perquisizione e sequestro, una volta eseguiti, non sono più coperti da alcun segreto e quindi se ne può tranquillamente parlare. Quindi qui non c'è nessuna violazione, ma al di là delle violazioni e del segreto d'indagine, io mi riferisco proprio ai commenti, alle valutazioni sociali e politiche da parte dei magistrati, alle valutazioni delle prove. Questi sono aspetti che devono essere assolutamente riservati. E detto questo, ci sono una serie di considerazioni che non mi condivido e che non condivido per nulla. Ad esempio, il fatto di parlare di attacco come quasi e se la magistratura concordasse da una parte all'altra della penisola una linea di intervento politico, economico, sociale, credo che sia veramente al di fuori della realtà, perché basta conoscere un attimino i magistrati e per dire metterne assieme 5 in una stanza vengono fuori 10 idee diverse. È veramente non conoscere i meccanismi, anche perché tutte queste indagini, queste vicende processuali hanno tempi di maturazione molto lunghi, purtroppo, e molto diversi tra di loro. Questo è un aspetto. Secondo aspetto, quando ci sono i provvedimenti cautelari, come le catture o come i sequestri, ovviamente lì c'è il clou della polemica, il clou dello scontro, ma qui ancora una volta bisogna fare riferimento a leggi dello Stato che sono state approvate dal Parlamento e che devono essere applicate. Se la magistratura ravvisa che ci sia un reato, se i periti, come nel caso dell'Ilva di Taranto, dicono che ci sono delle coorti, cioè dei gruppi di persone che in questo momento stanno subendo un danno, come i bambini fin da 0 a 1 anno, i bambini da 0 a 10 anni hanno un aumento, eccesso statisticamente significativo di patologie non solo tumorali ma anche dell'apparato respiratorio, il magistrato ha il dovere, ha l'obbligo giuridico di intervenire. Allora sta alla politica, avrebbe dovuto effettuare un intervento prima, e cioè prevenire queste situazioni, e comunque sta alla politica a intervenire non per andare allo scontro, ma per cercare di risolvere queste situazioni. Poi l'ultimo punto degli altri così che ricordo a memoria di questo primo intervento, quello sulle tangenti all'estero. Ma noi crediamo ancora purtroppo che l'Italia sia un modello per l'estero di trasparenza, di pulizia, di burocrazia, di lotta alla corruzione. E invece sono convinto molto correttamente ormai da anni tutti gli osservatori internazionali ci mettono molto indietro per quanto riguarda l'efficienza della giustizia, la lotta alla corruzione, le pastoie burocratiche. Io ricordo un rapporto, uno dei primi, della Banca Mondiale, che doveva essere del 2002 mi pare, che faceva proprio un paragone tra il tasso di corruzione presente nei paesi internazionali del mondo, la non efficienza della magistratura, le pastoie burocratiche, lo metteva in rapporto alla crescita, allo sviluppo, agli investimenti esteri. Era impressionante il giudizio negativo che ne usciva e che continua a uscire sul nostro paese. Ora noi ci siamo inseriti in una comunità internazionale, europea e sovraeuropea, che prevede la lotta alla corruzione come uno degli aspetti importanti, non soltanto per questioni etiche, e a me basterebbe personalmente, ma anche per questioni di concorrenza, di libero mercato, di funzionalità della macchina amministrativa. Quindi noi dobbiamo ragionare in quest'ottica. La corruzione internazionale è un delitto, la corruzione internazionale mina i rapporti tra gli stati, la corruzione internazionale rovina i rapporti delle imprese corrette nei confronti del mercato, è un delitto, va individuato e va punito. Sentiamo su questi punti, su queste due posizioni così diverse, vorrei sentire appunto Carlo Calenda, lo ricordo ancora, l'abbiamo presentato all'inizio, manager e candidato di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio 1. Allora Calenda, lei da uomo d'azienda, come vede questo discorso e questo dibattito? E poi su questo tema, sul tema delle tangenti, c'è un'intervista interessante, secondo me forse la più interessante di tutta la giornata, che abbiamo pescato oggi, che abbiamo trovato sui giornali, che insomma tra un po' ve ne parlerò. Calenda. Sì, ma guardi, intanto ex manager, perché da quando ho intrapreso questa avventura insieme al presidente Monti ho ora ovviamente rassegnato le dimissioni da ogni incarico. Detto questo e premesso questo, io non sono intanto d'accordo sul tema della corruzione internazionale come un danno che si fa solo al paese di destinazione, diciamo, della corruzione, perché in realtà la corruzione internazionale falsa il processo di concorrenza, e dunque al di là dell'aspetto, come posso dire, etico, esiste un aspetto di efficienza del mercato e anche di concorrenza corretta tra le diverse aziende. Detto ciò e premesso ciò, è del tutto evidente ed è un dato di fatto che queste pratiche sono pratiche molto diffuse, sono pratiche diffuse e spesso coperte, sono pratiche che sulle quali la magistratura anche in paesi europei, altri paesi europei, tende, come posso dire, ad avere un atteggiamento più permissivo. Ora questa però è una patologia, e il fatto che sia una patologia diffusa non toglie il fatto che è una patologia che va combattuta, perché, lo ripeto, falsa l'efficienza del mercato. Stesso caso, stesso tipo di ragionamento per l'IVA, io condivido il giudizio del senatore Casson, cioè il problema c'era da tanti anni, perché in realtà le prime indagini sull'inquinamento sono dell'82, allora lì ci sono due questioni: una questione che è il fatto che la magistratura è chiamata a intervenire quando ci sono problemi di questo tipo e deve intervenire in maniera rigorosa e immediata, l'altra esiste però anche un tema dell'azione politica, cioè se la politica ritarda l'intervento, se la politica fa diventare il fenomeno sempre più patologico, sempre più difficile da governare, fa passare anni e anni, e beh, allora poi diventa molto difficile districarsi tra il lavoro che deve fare la magistratura, sì, e il lavoro che deve fare la politica. Calenda, devo dire la verità, la cosa che ha lasciato perplessi tutti quanti, e poi magari di questo torneremo a parlare anche con Casson, la cosa che ha lasciato perplessi tutti è più che altro la parte del sequestro dei prodotti finiti, è quella certo. Forse è quella forse la no, cosa no, che ha colpito infatti, più che ha fatto sono... che ha fatto Scusi, pensare no dico che ha fatto dire beh insomma questi magistrati non è che si stiano muovendo tanto bene. Ma è esattamente quello che dicevo quando mi riferivo al fatto che i processi si incancreniscono e diventa molto difficile districarsi. È chiaro che secondo me nel caso dell'Ilva, per quello che posso giudicare ovviamente come osservatore e lettore di giornali, c'è, come posso dire, un accanimento che è diventato controproducente rispetto a tutto il processo che deve guardare dal lato uno stabilimento importantissimo il lavoro e dall'altro la salute. Credo che mi pare che gli ultimi rivolgimenti siano positivi da questo punto di vista, perché consentono di produrre quelli che sono gli effetti della bonifica e allo stesso tempo di non bloccare l'operatività del gruppo. Questo non c'è dubbio, voglio dire, che a un certo punto si mettano in moto meccanismi di accanimento, secondo me. Però è anche vero che questo non vuol dire che si possa immaginare che ci siano complotti nazionali e internazionali per attaccare le nostre aziende. Non, onestamente questo non mi sembra di poterlo ravvisare. 800240024 per intervenire in diretta, 9 in punto, scritto a lettere, 9 in punto, proprio così l'hashtag su Twitter per intervenire. Sentiamo Simone che ci chiama da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Prego. Allora, il mio intervento è anche cognitivo, nel senso, se Finmeccanica, come si presume dall'indagine, ha pagato tangenti, io penso che le tangenti siano state pagate con dei fondi fuori bilancio, anche perché normalmente le tangenti non si mettono in bilancio. Quindi Finmeccanica come ha pagato queste cifre? La nostra azienda ha dei fondi all'estero occultati o cose di questo genere? In quel caso sarebbe un problema nostro, sarebbe un problema giuridico italiano e sarebbe da indagare. Allora, questa è una questione però Simone, sulla quale stanno indagando i magistrati. Tra l'altro ricordiamo ancora una volta, per quanto riguarda tutte queste aziende, che sono ovviamente indagini in corso, insomma stanno uscendo tantissime cose, però appunto sono indagini ancora in corso. Io prima di prendere una breve pausa e tornare dai nostri ospiti, vi voglio leggere questo brano di intervista del quale vi parlavo, un'intervista realizzata dalla Stampa da Paolo Mastrolilli, inviato a New York, intervista Jagdish Bhagwati, professore della Columbia University, studioso del Council on Foreign Relations e un'autorità mondiale nello studio e nella pratica dei commerci internazionali. E c'è questa frase che devo dire mi ha colpito. Bisogna saper distinguere, dice, perché ci sono diversi livelli. Supponiamo che un paese importante mandi una delegazione in India guidata dal capo del governo e prometta alle autorità di Nuova Delhi di aiutarle in Kashmir in cambio di una grande commessa cui tiene. Non si spostano soldi, non ci sono tangenti, ma arriva a sostegno politico a livello internazionale, magari qualche fornitura di armi. Come la chiama questa? 9 in punto. I due temi si incrociano, quelli delle aziende e quelli della giustizia. Su Twitter ci scrive il pessimista, hashtag, ve lo ricordo ancora una volta, 9 in punto. Deve tornare ad essere fondamentale la differenza tra un'accusa e la colpevolezza. Ora accusa equivale a condanna. Caro mio, insomma, ne discutiamo almeno dal 92. David Zannini ci scrive: non può passare come normale un comportamento fuori legge, perché altrimenti anche il pizzo potrebbe diventare consono. Borghi, Claudio Borghi, tutti contro di lei. Ma sono abbastanza abituato, comunque a me interessano le idee. Volevo semplicemente far notare una cosa: ogni volta che si parla di possibili inefficienze o complotti o accordi o qualsiasi altro tipo di mala giustizia, no? La risposta è sempre: ah beh, no, certo, bisogna fidarsi della giustizia, basta mettere 5 magistrati in una stanza e vedete che non si mettono d'accordo e così via. Benissimo, supponiamo che sia così, ma è possibile ed è lecito chiedersi se non fosse così cosa bisogna fare? Perché nel momento stesso in cui noi abbiamo una categoria di persone che sono libere di fare un danno incredibile dal punto di vista reputazionale, sia le persone, però sa, quando è una persona uno dice, vabbè, è lui, e poi si pensa sempre fino a che non capita a noi. Dopodiché poi abbiamo, in questo caso, vediamo dei danni potenzialmente irreversibili anche per imprese. Allora a quel punto lì uno dice: io prendo e faccio un danno a un'impresa. Supponiamo giusto così per amore di discussione che la situazione dell'ILVA, invece di essere data da dati oggettivi o così questo tipo, fosse data dal fatto che il pool dei magistrati non gradissero il panorama. Allora a un certo punto uno dice: io non gradisco il panorama, prendo tanto un po' di inquinamento, è ovvio, un'impresa la fa sempre, mi metto su un po' di dati, una perizia di parte, no, e così questo tipo, che non si nega mai perché le pagano loro. E a quel punto lì poi dopo io prendo e faccio chiudere l'azienda, chissà mai che poi dopo magari mi mettono una spiaggia davanti a casa invece che un'antipatica acciaieria, che la spostino ben da un'altra parte. Se fosse questo il caso, che sistema ha l'Italia di tutelarsi? Se invece ci fosse un po' di magistrati che sono stati incoraggiati o aiutati da potenze straniere, per esempio, adesso non voglio fare complottista, ma immaginiamo, per facilitare suona un po' da complottista. Sì, ma questa suona, cosa. Ma io sto estremizzando per capire come se, perché se un politico, cioè quando uno dice bisogna avere fiducia alla magistratura, è la stessa roba dire bisogna avere fiducia del Parlamento. Cioè le persone sono le stesse, non è che se io prendo un politico, se prendo un magistrato, da una parte sto parlando di un marziano e dall'altra parte sto parlando di un uomo. Così come ci sono i cialtroni fra i politici, sicuramente ci saranno i cialtroni fra i magistrati. E allora io mi domando, dato che da una parte pur labile il controllo col voto gli italiani ce l'hanno, dall'altra parte abbiamo una situazione che ricordiamo unica al mondo, tranne l'Albania e la Slovenia, è autoreferenziale totalmente. Quindi non c'è nessun tipo di controllo, anche indiretto, no, dal punto di vista del popolo, su quello che possono essere le strutture della magistratura. Come ci si tutela? Se uno fa un danno grandissimo, se io prendo e faccio chiudere la Finmeccanica, faccio chiudere l'ENI o così questo tipo, la faccio svendere all'estero e poi dopo si rivela che era tutto falso, che era tutto che le accuse hanno inventate, così questo tipo, il magistrato non ottiene nessuna penalizzazione. Bisognerebbe prima cominciare a mettere subito una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, in modo tale che se per caso uno fa un danno enorme, di questo danno enorme professionale possa essere chiamato a rispondere. Borghi, il punto è netto, la sua posizione è netta e io su questo voglio sentire Casson, perché Claudio Borghi sta giocando coi paradossi, chiaramente, no? Dice mettiamo che abbiano deciso che all'ILVA sì c'è un po' di inquinamento ma non ce n'è tanto e abbiano deciso che non gli piaceva il panorama. È un, chiaramente è un giocare con il paradosso, però c'è un problema, perché se succede una cosa di questo genere, magari a livello minore, a livello di aziende più piccole, poi però come ti tuteli, come si tutela il paese da situazioni di questo genere? A me sembra che più che un paradosso siamo completamente fuori dalla realtà, perché per rimanere al caso dell'ILVA non si è trattato del perito, del consulente di una parte, ma c'è stata la scelta di periti autonomi da parte del giudice che hanno fatto degli accertamenti, analisi, approfondimenti che hanno dato determinati risultati. Le malattie e le patologie tumorali non sono certo inventate, la distruzione ambientale in quella situazione sotto gli occhi di tutti credo che sia forse anche un po' offensivo parlare di panorama, del panorama che non piace, le questioni sono molto più pesanti e le responsabilità, dicevo nel primo intervento, sono certamente della politica che non ha prevenuto queste situazioni, ma direi anche che di coloro che dovevano controllare nei decenni passati e non sono mai intervenuti o sono intervenuti in maniera insufficiente. Mi riferisco sia ai controlli amministrativi ma anche alla magistratura. Perché non basta fare un processo per inquinamento ambientale quando le situazioni sono così gravi. E d'altra parte le regole di uno Stato sono queste. Però Casson sì. La interrompo per questo. Allora portiamo un altro esempio. Portiamo l'esempio di Finmeccanica. No? Si scopre a un certo punto che... paradosso oppure no, perché l'azione penale è in corso, non c'è ancora processo e quindi non lo sappiamo, che questa tangente non esiste e che a questo punto però la commessa ai 500 milioni è stata già bloccata dall'India. Come si fa, come ci si tutela da una situazione di questo genere? Capirà che è un problema serio per l'industria italiana, no? Sono assolutamente d'accordo su alcuni altri aspetti anche dell'intervento che c'è stato poco fa. Però voglio ricordare innanzitutto che la cosiddetta corruzione internazionale esiste da vari anni, quantomeno credo dal 2000 nel nostro ordinamento, ed è stata introdotta a seguito di indicazioni, sollecitazioni normative internazionali sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che dell'Unione o Comunità Europea. Quindi esiste per questo, ci sono dei vincoli internazionali ai quali l'Italia si deve adeguare, questo era stato fatto. Detto questo, il problema riguarda non soltanto queste situazioni internazionali, ma anche quelle nazionali, perché al di là di Finmeccaniche dell'India può succedere che una situazione analoga di intervento sul mercato, su un'attività industriale o commerciale o comunque imprenditoriale possa avere effetti negativi immediati e poi alla fine le indagini saltino completamente e il processo accerti che non c'è stato alcun reato. Il problema è questo, il problema di far funzionare il meccanismo della giustizia, che è in uno stato comatoso, prefallimentare direi, con responsabilità che vanno diversificate dalla politica, la magistratura, avvocatura, in parti diverse ovviamente, però ci sono un po' tutte queste responsabilità. È vero anche quello che viene detto, che in certe situazioni la magistratura, specialmente direi le correnti della magistratura, si presentano in maniera autoreferenziale, certamente da condannare, con responsabilità per la parte loro, ed è anche vero che il sistema della responsabilità civile dei magistrati va adeguato, perché così com'è non funziona per niente, e sono delle norme assolutamente ridicole che hanno negato le decisioni del popolo italiano quando c'è stato all'epoca il referendum, mi pare nel 1986-89, quindi vanno certamente adeguate. Va fatto un intervento sul sistema processuale civile per quanto di competenza e penale per quanto di competenza, non si possono aspettare le calende greche per avere decisioni. Quindi e aggiungo un ultimo punto sulla responsabilità civile, pur essendo convinto che vada riformata, non esiste in nessun Stato europeo un ricorso diretto a carico del magistrato che possa avere sbagliato, eccetto i casi di dolo, cioè volutamente il magistrato crea un danno. Esiste invece una possibilità per tutti di ricorrere nei confronti dello Stato se ci siano dei danni, e questo è comprensibile perché la magistratura nel suo insieme è un organo dello Stato. Quindi se ci sono delle responsabilità si ricorre nei confronti dello Stato, il quale a sua volta poi ricorre nei confronti del singolo magistrato. Il sistema va adeguato nell'interesse di tutti, nel bene e nel male. Sentiamo qualche ascoltatore, poi torniamo da Carlo Calenda. Sentiamo Sergio che ci chiama da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Prego, breve mi raccomando. Brevissimo, solo dire che Finmeccanica, oltre nel campo degli elicotteri, costruzione di elicotteri, è una delle eccellenze mondiali, tant'è vero che si rivolgono a noi italiani proprio in questo campo. Nazioni che possono competere con noi sono nel mondo 4-5, la Francia, forse l'Inghilterra, la Germania e basta, che operano nei mercati internazionali in questo campo, e lo si sa a memoria, attraverso purtroppo le malefiche tangenti. Allora, o noi, ahimè, ci adeguiamo, oppure facciamo prima smantellare la nostra eccellenza italiana. Licenziamo, sì e no, non so quanti siano, ma presumo 10.000 operai, e rinunciamo a questo business. Finito. Grazie Sergio. Vittorio ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Spezia. Allora, prego. Stavo dicendo alla sua assistente, stamattina mi fate vomitare, lei non c'entra, però dopo aver ascoltato Stellino, questo pseudo liberale dei miei stivali che quasi quasi, voglio dire, legittima le mazzette o le tangenti, poi mi devo ascoltare questo Borghi che probabilmente ho sentito che insegna anche in università, ma forse non si è mai fatto la domanda che siamo ridotti così in Italia, proprio che abbiamo anche di questi giornalisti che portano avanti una, ma come si fa? Poi ne ho sentito uno che dice che lavora con la grande distribuzione e il sistema è così, io ci lavoro da 25, forse 27 anni, non è vero questa cosa qui, che la grande distribuzione per forza bisogna pagare mazzette, non è vero, bisognerebbe denunciarlo, uno che dice queste cose deve essere anche presidente dell'Usarti, ho sentito, ma veramente stamattina è una roba indecente, la colpa è anche di mettere dentro anche lei giornalisti, perché dovrebbe essere più davanti a uno che sostiene le tesi di Borghi, bisogna non so cosa bisogna fare, non bisogna farla parlare fanno un danno enorme, fanno un danno enorme alla società, ai giovani, ai ragazzi. Non è possibile, non è possibile. Grazie Vittorio, però come ha sentito non è che è solamente Borghi, anche voi mi sembra che vi spaccate, insomma la testimonianza è quella dell'ascoltatore di prima che diceva insomma o si paga o non si fa. Calenda, Carlo Calenda, candidato di Scelta Civica, ci aiuti in questa discussione, si sta facendo piuttosto calda anche su come si sta svolgendo il ruolo qua in trasmissione e sugli ospiti convocati. Ma guardi, io a parte essere perfettamente d'accordo con Borghi sul tema della responsabilità dei magistrati, perché tanto più si può essere rispettosi come posso dire, di un potere costituito, tanto più questo potere costituito è chiamato a rispondere, perché ovviamente altrimenti il principio di affidamento viene in qualche modo meno. Dunque sono perfettamente d'accordo. Detto questo, è interessante l'intervista di Baguati, io l'ho letta e in qualche modo anche sorprendente, però mi permetto che non è interamente corretta, perché uno Stato che promette aiuti in cambio di commesse è uno Stato che sta usando il potere di, come posso dire, il potere statuale per dare un aiuto a un paese, quindi costruire scuole, supportarlo nelle università eccetera, e questo c'è sempre stato e quindi un'utilità collettiva rispetto a una commessa. Ben altra cosa è quella di foraggiare un ministro, e questo credo sia evidente a tutti. Poi è del tutto vero che tutte le grandi aziende che operano in questi settori sono stati oggetto di indagini, di problemi relativi al pagamento di tangenti, dunque è una prassi, ed è una prassi però negativa. Allora noi non è che possiamo incominciare a fare un ragionamento per il quale se c'è un diffuso comportamento illegale, questo diffuso comportamento illegale va accettato, perché questo è un principio mortificante e non accettabile. Su questo, solo su questo, devo dire, sono d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che riconoscere il fatto che c'è una malattia non vuol dire doverla accettare. Graziella da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, dottor Spezia. Prego. Io sono d'accordo con quello che ha appena detto l'ultimo suo ospite e volevo precisare che la discriminante sostanziale della tangente è che la tangente va a finire nelle tasche solo di qualcuno, mentre la costruzione di ospedali e quant'altro invece fa eventualmente incassare lo stipendio a qualche operaio. Io che ho 6 nipotini non sto dicendo a loro che dovranno pagare le tangenti quando saranno grandi, ma sto cercando di spiegare che devono essere bravi, che devono dimostrare di saper fare le cose e quindi semmai il loro lavoro sarà frutto di questo. 9 in punto. Riprendiamo il filo da quell'intervista che ho citato io prima, che ha ricitato Calenda adesso e sulla quale vorrei tornare. Insomma, Claudio Borghi, non sarebbe più normale ragionare in questi termini, cioè ragionare in termini di dire, insomma, c'è qualcosa che lo Stato può fare che magari qualcuno potrà considerare assimilabile ad una tangente, ma non lo è, come ci diceva in realtà Graziella da Bergamo, ed è semplicemente un aiuto al governo, senza andare a pagare direttamente il ministro piuttosto che il funzionario che si occupa dell'appalto. Innanzitutto, allora a questo punto facciamo fare tutta l'America, perché è evidente che se la contropartita per avere contropartita, diciamo così, pulita per avere servizi è che arriva un governo e ti promette, che ne so, un appoggio militare dell'intelligence contro i loro nemici, allora non so, caso India, Pakistan e cose di questo tipo sono palesi, allora dobbiamo investire in esercito, perché dobbiamo andare in giro in servizi segreti, dobbiamo andare in giro a fare aiuti di questo tipo, non mi sembra il caso. Io semplicemente direi che come aiuto al governo, come aiuto all'economia, basterebbe che si remasse tutti dalla stessa parte. Non mi sembra impossibile, mentre invece qui in Italia, storicamente, ma stiamo parlando dei tempi del Medioevo, il nostro vicino ci sta antipatico. e quindi che vinca lo straniero va benissimo, l'importante è che non vinca quello di fianco a me che mi sta sulle scatole. Allora a quel punto lì, scusate, sembra che di corruzione in Italia non ce ne siano e quindi sia assolutamente prioritario andare a interpretare la legge indiana sulla corruzione, capire se una roba è corruzione o no e andare a tutelare la corruzione in Algeria piuttosto che la corruzione in India. Ma scusate, ma abbiamo una situazione tanto palese, per esempio, ne sto dicendo una a caso, tanto palese come la Serravalle, dove a un certo punto c'erano delle azioni che valevano uno il giorno prima e poi dopo incredibilmente vengono comprate con soldi pubblici a 8 il giorno dopo, estremizzo, ma in realtà sono state comprate al doppio e c'è un danno accertato di centinaia di milioni di euro. Il processo non è ancora iniziato, sono fatti del 2005, denunciati in diretta dal sindaco di Milano all'epoca. Ma dico, cioè uno, quando vedo la gente che va a prendere, ma se il reato c'era, sì, ma se il reato c'era, non è che ne mancano in Italia, no? Allora a un certo punto uno dice, caspita, devo andare a fare il giustiziere, dalla procura di Busto Arsizio, devo andare a fare il giustiziere di quello che succede in India. Ma, c'è un punto, Borghi, semplicemente il buon senso. Borghi la fermo, perché a questo punto io vorrei far intervenire Casson, perché ci sono delle domande che ci arrivano in realtà via Twitter, abbastanza interessanti su quello che è lo snodo che Borghi sta toccando, che mi sembra essere quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, la famosa obbligatorietà dell'azione penale. C'è qualcosa da riformare da questo lato che può essere utile anche in questa direzione? Ma io non arriverei all'obbligatorietà dell'azione penale, credo che basterebbe ragionare anche prima. Nel senso che all'interno di un ordinamento come quello statale o come quello internazionale, per la parte in cui esiste, ci devono essere e ci sono delle regole che vanno rispettate, ci sono dei principi di legalità, delle norme costituzionali che vanno assolutamente rispettate, anche perché hanno un fondamento etico molto chiaro, e non si può arrivare sempre al contrasto tra rispetto di legalità e economia o il mondo della produzione. Credo che a tutti i livelli bisognerebbe avere dei principi, oltre che per motivi etici, come dicevo prima, nell'interesse stesso dell'economia, del mercato, dell'industria. Che un'impresa funzioni è interesse di tutti, da livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale, deve funzionare in maniera corretta. Non è un caso che ce lo dica sì qualcuno in Italia, ma soprattutto a livello internazionale, e non è un caso che sottolineino che la rottura delle regole di legalità, di trasparenza, di funzionamento della pubblica amministrazione fanno i danni dell'economia stessa, delle imprese nazionali e internazionali che lavorano correttamente. E questo, ripeto, dalla Convenzione di Strasburgo e la Convenzione ONU sono assolutamente chiare. Detto questo, bisogna anche capirci su che cosa si intende per Stato, perché Stato non è un settore dello Stato come potrebbe essere l'industria, l'economia o altri settori. Lo Stato è l'insieme della comunità che è regolata dalla nostra Costituzione. E nella nostra Costituzione si parla di tutela della salute, di tutela del lavoro, di tutela della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia. Il problema è far funzionare queste macchine. Sono d'accordo che c'è l'impressione che la magistratura alle volte navighi contro una certa parte piuttosto che contro un'altra. Il problema è fare in modo che questa macchina della giustizia funzioni e che se ci sono dei magistrati che sgarrano, come in qualche caso è successo, possano essere sanzionati in maniera adeguata, con responsabilità penale che esiste, con la responsabilità amministrativa disciplinare che esiste e con un adeguamento di quella civile che in questo momento certamente non funziona. Gianluca ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego, allora, io breve, dare breve una, mi raccomando. Brevissimo, una piccola testimonianza dal basso. Allora, prima di tutto, per statuire un principio di libera concorrenza nel mondo, si tratta di un'evoluzione storica che richiederà decenni nella migliore delle ipotesi. Ma oggi io ero in oggi o in questi mesi io sono stato in Nord Africa e sono stato testimone di questo status quo di cose. Ovvero, dal blocco stradale della polizia, che sostanzialmente pretendeva una prebenda irrisoria, in quanto noi italiani ricchi che veniamo investiti in quel paese, per non farci perdere tempo al posto di blocco, fino al funzionario di turno per una banalità amministrativa che assumeva un atteggiamento del tipo «Scusa, sei italiano? Sei qui senza soldi? Che fai? Sei pazzo?» Allora la mia domanda è questa. Mi ascolta? Sì, prego, prego. La mia domanda è questa. Io sono in Nord Africa. Mi trovo davanti a questo sistema di corruzione istituzionalizzato. Sono solo. L'Europa è lontana anni luce. A chi mi rivolgo? Che devo fare? Che devo fare? Chi mi difende? Che devo fare? Chi mi difende? Calenda. Allora, nell'ordine, chi la difende, se c'è un sistema giudiziario funzionante, appunto quelli che fino adesso abbiamo chiamato in causa, cioè i giudici, il che ci riconferma che un sistema giudiziario funzionante è prima di tutto una garanzia per le persone che vogliono investire, per vogliono anche solo visitare un paese. Primo punto. Secondo punto, c'è un ragionamento di fondo che non comprendo nel paradossi di Borghi, che trovo anche interessanti dal punto di vista intellettuale, perché il fatto che ci sia corruzione in Italia e che questa corruzione freni gli investimenti esteri, esattamente come li frena in Algeria peraltro, io ho fatto il direttore degli affari internazionali in Confindustria e le aziende quando vanno a investire, in particolare quelle medie, non quelle grandissime, quando vanno a investire in questi paesi ci pensano 17 volte, perché si sanno perfettamente che non esiste quello che viene chiamata la rule of law, che rischiano di trovarsi in una situazione in cui dipendono dal favore di un politico piuttosto che un altro. Dunque questo sistema è chiaro che è un mondo ideale, un mondo senza corruzione, però dall'altro lato noi dobbiamo tendere a un sistema che abbia meno corruzione possibile. Ma aggiungo una cosa, il fatto che ci sia molta corruzione in Italia non può in alcun modo consentirci di pensare che possiamo andare a corrompere in altri paesi, perché intanto sarebbe del tutto un ragionamento, oserei dire, medievale questo, perché è come quando si diceva che oltre la linea, no, quando si andava in Africa, i paesi occidentali potevano fare quello che volevano. Ora questo non è più vero e soprattutto non lo è in un mondo globalizzato. C'è un ultimo punto sulla Milano-Serravalle, è un buon esempio del perché in qualche modo la magistratura si trova a invadere il campo. Un po' lo fa perché c'ha degli eccessi e non c'è dubbio, un po' lo fa anche perché in Italia accadono cose che, come posso dire, che dove la politica non dimostra alcun senso del limite. Storia della Milano-Serravalle, io me lo ricordo, è una storia che lasciò già all'epoca tutti esterrefatti, ma era una cosa che doveva provocare una reazione violentissima all'interno della politica, che non ci fu, o che ci fu solo parzialmente. E però dice Borghi, il processo non è ancora iniziato, insomma, stiamo là. Malissimo, ma quello che voglio dire è che il processo non è ancora iniziato, ma non si doveva consentire quell'operazione, e il fatto che sia stata consentita politicamente, che si sia potuto fare un'operazione che chiaramente non aveva nessuna logica rispetto a quello che deve essere il ruolo di un'istituzione pubblica, è chiaro che pone un problema anche alla politica, non solo alla magistratura. La magistratura non ha agito, ma non ha agito neanche la politica. Allora, noi siamo quasi in chiusura, ci dite, ma volete controbattere a Borghi, è indecente? Beh, ce lo scrivete via Twitter, già lo stanno facendo via Twitter alcuni ascoltatori. Nino dice, la spaccatura è etica, chi dice esiste un fine che giustifica il mezzo non è liberale, è complice di un sistema malato. E Marco invece dice, la nostra economia va a rotoli, piuttosto che spingere forte per un cambiamento si arriva a giustificare l'illegalità. Borghi, una risposta in 20 secondi a questi ascoltatori. Ma io non ho mai giustificato l'illegalità, io non ho mica detto che facciamo benissimo a pagare tangenti in giro per il mondo o cose di questo tipo, io mi sto semplicemente ponendo il problema che se il problema è la corruzione ci sono tante priorità in casa nostra che, come giustamente si diceva, dovrebbe essere reso un ambiente amichevole e attraente per gli investimenti. Prima di andare, cioè c'è un problema di buon senso e di sequenza. Io non ho mai detto che sono sempre stato stracorretto nella mia vita lavorativa è una cosa che mi è sempre stata riconosciuta da tutti. Per cui dal mio punto di vista uno fa bene del paese. Siamo in chiusura, devo interrompere, però insomma il concetto espresso è chiaro. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie Felice Casson, Carlo Calenda, Claudio Borghi, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata. Radio 24, la passione si sente.